una la città con la più alta presenza di migranti, no? A livello relativo, e la Lombardia in tutto racchiude un quarto dei migranti presenti in Italia, cioè 1 milione di persone. Oggi a Milano c'è un corteo molto partecipato per ricordare i fatti tragici di Firenze, e diciamo è stato in contemporanea con una manifestazione organizzata in realtà già da tempo, era la manifestazione globale contro il razzismo. Quindi questi due avvenimenti poi dopo si sono uniti e è stato fatto un solo corteo. Diverse le comunità presenti al corteo, da quella sicuramente la più numerosa senegalese, ovviamente visti gli ultimi fatti, ma anche la comunità egiziana, la comunità tunisina e le comunità sudamericane fortemente presenti oggi in corteo. Più o meno ci sono state 3.000 persone in piazza, un corteo che è partito da Piazza Loreto e si è concluso davanti alla stazione centrale di Milano ormai da pochi minuti, con degli interventi finali da parte di esponenti delle diverse comunità migranti presenti. Tra l'altro Milano è una città particolare, perché Milano presenta un po', come a differenza anche di altre città, un po' un bel panorama delle destre italiane, perché Milano è il feudo della destra ex Alleanza Nazionale, è il feudo dei fratelli La Russa, e sappiamo bene che soprattutto il fratello, quello meno famoso a Milano, ha dei fortissimi interessi e dei fortissimi legami, è la città che è sempre stata anche storicamente una delle sponde del movimento Boned italiano, ma allo stesso tempo è anche la città dove la Lega spesso e volentieri ha un peso abbastanza determinante. Esatto, ricordiamo che fino al maggio scorso il vice sindaco di Milano era quello Riccardo Decorato, campione del securitarismo, insomma ce lo ricordiamo tutti, le sue sparate contro gli immigrati e contro i Rom. Direi proprio vere e proprio crociate più che sparate, esatto, quelle di Decorato, dalle campagne appunto anti-Rom, anti-campi Rom, alle campagne appunto, ma al di là oggi lasciamo perdere quelle che sono poi, no, le campagne contro i centri sociali, i compagni e le compagne di Milano, che hanno un livello abbastanza diverso, o comunque noi stessi abbiamo un livello di confronto diverso riguardo queste cose. Però l'accanimento di Decorato nei confronti dei Rom e dei migranti, di tutti coloro che non erano, no, non bianchi europei, è sempre stato un accadimento piuttosto grave e piuttosto pesante. Esatto, ricordiamo anche tutta la campagna contro gli islamici, soprattutto le polemiche che c'erano state contro la curia di Milano dopo che c'erano state le manifestazioni in occasione dell'aggressione israeliana alla Palestina, a Gaza in particolare, che si erano concluse con delle preghiere in Duomo. C'erano state numerose polemiche proprio islamofobiche da parte sia di Decorato che dei leghisti nostrani, penso a Matteo Salvini in particolare. Qual è l'impressione che ti rimane appunto dal delitto ABBA, perché di delitto si chiama, sono passati, certo, un paio d'anni, un ragazzo giovanissimo ucciso per futili motivi, non semplicemente per oltre che appunto per il colore della pelle e per il fatto semplicemente di essere un migrante, è cambiata la percezione in città, oppure la tua sensazione, la sensazione poi di chi fa antifascismo e antirazzismo in città, e che non sia minimamente mutata? Ma sinceramente in questo periodo soprattutto di crisi la situazione mi sembra che non sia tanto cambiata. Si vive sempre di più un graduale impoverimento delle classi sociali, e è stata fatta una politica di creazione un attimo di zone tra virgolette ghetto della città, e in queste zone, penso a tutta la zona di via Padova, di via Imbonati, Maciacchini, un po' perché conosce Milano, sono dei nomi familiari, le tensioni, come dire, sono all'ordine del giorno. Dopodiché sta, come dire, alle associazioni, ai collettivi, anche ai compagni che vivono nel quartiere, tentare di lavorare in un altro senso e proporre anche una visione diversa della città e anche dello stare insieme. Senti, qual è stata la partecipazione dei compagni e delle compagne alla manifestazione di oggi? Perché c'è sempre la sensazione, qui magari perché è anche giusto poi mettersi in discussione noi stessi che ci dichiariamo antirazzisti e antifascisti, qual è stata la partecipazione delle, appunto, chiamiamole così, dei movimenti? Perché abbiamo spesso la sensazione è che di fronte a questi avvenimenti la nostra risposta, o comunque proprio il nostro coinvolgimento, è sempre un tantino inferiore a quanto dovrebbe essere. È una critica, veramente una messa in discussione che facciamo un po', che vorremmo capire che facciamo noi stessi in primis, poi per capire quali sono gli strumenti di cui dovremmo dotarci, perché poi c'è sempre il rischio A, che non si partecipa abbastanza bene, B, che se si partecipa poi si tende a determinare certe, appunto, una manifestazione, non quanto, no? Quanto un corteo, un presidio e via dicendo. Certo, sono totalmente d'accordo con l'analisi che facevi tu. La partecipazione infatti dei compagni, se devo essere sincero, non è stata elevatissima. Diciamo che il 90% delle persone che hanno partecipato a questo corteo era sicuramente appartenente alle comunità migranti di Milano e dell'Interland, perché comunque c'erano anche molte persone che sono venuti da fuori, anche da più parti della Lombardia. Quindi la presenza dei compagni è stata sicuramente minoritaria, sicuramente è stata anche un passo indietro rispetto anche all'organizzazione del corteo, che è stato interamente autogestito, auto-organizzato dalle comunità migranti. Credo che questo comunque sia un segno anche un po' della mancanza dei compagni su questo argomento, che dopo le grandi battaglie che sono fatte per la chiusura prima dei CPT e poi dei CIE, si è arrivato un attimo il momento di riprendere anche la battaglia antirazzista. Per questo stiamo tentando un po' di rimetterci in connessione con le varie comunità. Noi come Rete San Precario siamo sempre in contatto con i movimenti dei migranti auto-organizzati, anche per quanto riguarda la problematica del lavoro, della precarietà. Ricordiamo a questo proposito la lotta dei lavoratori dell'Estelunga, che sempre come Rete San Precario, insieme a altri gruppi e collettivi di compagni, stiamo seguendo. 22 lavoratori licenziati per motivi politici, dopo che hanno organizzato e partecipato a uno sciopero, e questi 22 lavoratori erano tutti migranti che appartenevano a una delle cooperative di Estelunga. Sento? Mi senti? Sì. Ok, senti, no, ti volevo dire che forse Milano è anche un po' un laboratorio politico di avanguardia rispetto al razzismo che diventa senso comune, e mi riferisco anche a certi provvedimenti che non fanno altro che vellicare distinti, diciamo così, più profondi, che riguarda per esempio la richiesta di vagoni separati nel metro di immigrati, la chiusura dei kebab, e questi provvedimenti che apparentemente sembrano quasi folcloristici, ma che invece poi vanno a incidere sulla percezione quotidiana. Assolutamente, io penso anche a un altro provvedimento che è stato poi dopo dichiarato illegale, però ha suscitato un una grossa polemica, quello contro i call center, insomma i phone center, i centri, diciamo, internet point, che sarebbero dovuti essere tutti dotati di addirittura 3 bagni, uno per donne, uno per uomini, uno per persone disabili. E ovviamente se voi, qualsiasi persona sia mai entrato in un internet point, sa benissimo che, date le dimensioni ridotte, 3 bagni in locali del genere erano assolutamente impensabili, e quindi era ovvio che questo provvedimento fosse solamente un pretesto per arrivare alla chiusura di questo tipo di locali. Ovviamente questo provvedimento, che era stato preso a livello regionale, poi dopo è stato decaduto, perché è stato dichiarato illegale, insomma. Però a questo dà un po' il senso, oltre alle buttate che fanno appunto i vari leghisti di turno sulle carrozze separate, del clima politico e soprattutto dell'obiettivo politico che hanno questi signori che cavalcano il razzismo quotidiano, che sono un po' quelli che noi chiamiamo gli imprenditori della paura, che sulla paura e sul securitarismo costruiscono le loro fortune politiche. Ci sembra una definizione splendida, proprio gli imprenditori della paura. Grazie Fabrizio, grazie del contributo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, ciao, a voi. Ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao. Ciao ciao.